falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi raccontiamo la storia di un uomo che è stato un grande calciatore e quando ha smesso di fare il calciatore è stato un grandissimo allenatore e quando ha smesso di fare l'allenatore è stato un grande commentatore sportivo, però prima di tutto è stato un padre esemplare che peraltro ha trasmesso il suo DNA di campione a un figlio che ha avuto il piacere e l'onore di allenare, è un figlio che è diventato una bandiera, un campione eccezionale. Oggi il figlio è Paolo Maldini, ma noi raccontiamo la storia di suo padre Cesare Maldini, lo facciamo anche perché stimolati da un ascoltatore che è Marco. Buongiorno Marco. Buongiorno Enrico. Come mai ci hai chiesto di parlare di Cesare Maldini? Ti dirò semplicemente, sai, gli anni 70, 72, sì. Mio papà mi regalò quelle figurine famose Panini di cui c'era su Cesare Maldini, allenatore del Milan, un grande uomo, cioè semplice, non ha mai avuto i grandi colpi d'ala, però nel suo piccolo una grande vita, sì. Marco, ti ringrazio infinitamente, grazie della tua segnalazione. Grazie Enrico della vostra possibilità di ascoltare una grandissima trasmissione. Ciao Marco. Ciao Enrico, ciao. E questa è la mitica sigla di tutto il calcio minuto per minuto, la trasmissione che negli anni 60 teneva incollati alla radio milioni di italiani che magari erano a passeggio con la moglie, i figli, ma sempre con la fedele radiolina appoggiata all'orecchio. Adesso c'è un mondo diverso con le mille telecamere. Bene, allora il calcio era questo, col calcio minuto per minuto che peraltro cominciava nel secondo tempo, quindi tu iniziavi dal secondo tempo a sapere cosa succedeva, le notizie dagli altri campi, con i vari Sandro Ciotti, Enrico Ameri, i grandi radiocronisti di allora. È in questo scenario che Cesare Maldini vive il periodo più importante della sua carriera da calciatore. E lui è triestino, figlio di genitori di origine slovena con il cognome italianizzato come allora si usava ed è lì che lui muove i suoi primi passi, una carriera nata nelle giovanili a Trieste. Lui è nato nel 32, esordisce in Serie A a 20 anni nella stagione 52-53, gioca in difesa e si distingue subito per la sicurezza, per il carattere. L'anno dopo alla guida alla Bardata della Triestina arriva El Parón Nereo Rocco e qui è un binomio insomma destinato a durare nel tempo perché i due si piacciono. Maldini conquista subito la fascia da capitano a 21 anni perché Rocco ha già riconosciuto in lui non solo la stoffa del campione ma anche il carisma per fare il capitano e l'anno dopo e infatti c'è il trasferimento importante, clou, perché Cesare Maldini ha dal Milan, l'allenatore in quel momento è un ungherese, si chiama Béla Gutmann e lo trasforma in libero, lo mette dietro alla difesa. È andata così, me lo inventò un allenatore ungherese, Béla Gutmann, perché io ero in pratica a Trieste un difensore esterno, lui mi mise in mezzo e andò benissimo e non uscì mai più. Nel 54 Béla Gutmann viene sostituito da Héctor Puricelli e il Milan conquista lo scudetto e Cesare Maldini ha la fortuna di far parte di quella squadra. È l'inizio di un periodo d'oro, durerà 12 anni, anno dopo anno Maldini, come sempre accade, vedrà succedersi allenatori, compagni di squadra. Nel 61 però si ricongiunge col Parón perché Nereo Rocco approda al Milan e Maldini diventa subito capitano della squadra. Il 61 è un anno particolare perché inizia un grande ciclo per il Milan che vince il campionato 61-62 e l'anno dopo disputa una storica finale di Coppa dei Campioni. È il 22 maggio del 63, siamo a Wembley, l'avversario è il terribile Benfica di Eusebio. Qui Londra, stadio di Wembley, vi parla Nicolò Carosio. Sono le 14:56, ora estiva del meridiano di Greenwich. Cielo sereno, temperatura ideale, campo ottimo. si giocavano al pomeriggio le finali di Champions, anzi allora di Coppa dei Campioni. La partita è una partita storica, intanto perché all'inizio si mette male, dopo 20 minuti il Benfica è in vantaggio, Eusebio sembra incontenibile e il Milan ha questa difesa con David, Trebbi, Benitez, Maldini e Trapattoni, ma nessuno riesce a fermare Eusebio. Rocco si sbraccia, urla, lo stadio però è enorme, i giocatori sembrano non sentire, il Milan sembra in confusione. Io ero capitano di quella squadra lì e mi accorgevo che le marcature di Trapattoni su Torres non andavano bene e cercavo disperatamente di comunicare col mio allenatore, che era il signor Rocco, però a Wembley è molto difficile, è molto distante, non si riusciva a comunicare. E allora, d'accordo con il portiere Giorgio Ghezzi, mi disse: ma dai, fai te il cambio. E io cambiai. Eh sì, il signor Rocco, come dice Maldini con rispetto, pur essendo due in grande confidenza, lo chiama il signor Rocco e non sente, e allora è il momento del colpo d'ala. Maldini si improvvisa allenatore, sposta Trapattoni su Eusebio. La mossa è una mossa vincente, perché da quel momento Eusebio non tocca più il pallone, viene annullato, e nel secondo tempo Altafini segna due volte. Il Milan vince per la prima volta la Coppa dei Campioni, e questa è solo una delle 347 partite che Cesare Maldini giocherà con la maglia del Milan, fino al 67, quando gioca l'ultimo anno e va a Torino. Perché a Torino? Perché l'allenatore del Torino in quel momento è ancora lui, il signor Rocco, Nereo Rocco. Questa è la sua ultima stagione, ma lo sta già aspettando una carriera da allenatore. Il falco e il gabbiano. Ma il legame tra Cesare Maldini e il Milan è così forte che Cesare Maldini, subito dopo il ritiro dal calcio giocato, ha un posto come collaboratore tecnico proprio nel Milan. Ma anche perché chi è l'allenatore del Milan? Il signor Rocco, Nereo Rocco, il suo maestro. E così, appena Rocco diventa direttore tecnico dei rossoneri, a sedere sulla panchina ci va lui, Maldini. È il 1972, stiamo parlando di una squadra con Rosato, Prati, Schnellinger, Bigon, Chiarugi, Benetti e, per non parlare naturalmente, di Gianni Rivera. Quella è una stagione particolare del Milan, perché vince la Coppa Italia, vince la Coppa delle Coppe, però perde il campionato in una partita che rimarrà mitica, un 5-3, anzi un 3-5 contro il Verona del nostro amico Zigoni, mentre la Juve vince e supera il Milan proprio all'ultima giornata. È una grande delusione per Maldini e anche per i tifosi e per la dirigenza. E così l'anno dopo Maldini viene sostituito dal da Trapattoni. E Maldini non ha un grande palmarès come allenatore di club italiane. Dopo il Milan va a Foggia, poi a Terni, poi al Parma, che non era il Parma di oggi, era un Parma, diciamo, in posizione di rincalzo. Tutta una situazione, insomma, che non si addice a chi è stato abituato a fare l'allenatore in campo in una grande squadra. E così l'attenzione di Maldini va sulla nazionale ed entra a far parte dello staff tecnico a fianco di Enzo Berzotto. E qui la musica è diversa, perché nell'82 la nazionale, ferita dagli scandali del calcio scommesse, parte per la Spagna per disputare il mondiale. Ferma Scirea, Bergomi, Gentile, è finito! Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo! L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1. È il triplice campioni del mondo di Nando Martellini, suggella quel mondiale incredibile. E dico incredibile non solo perché l'abbiamo vinto, ma perché è stato un mondiale veramente particolare, avvio incerto. Nel girone noi abbiamo il Camerun, il Perù e la Polonia e facciamo tre pareggi. Poi si va avanti e invece di colpo l'Italia esplode, batte l'Argentina, batte il Brasile, batte la Polonia Polonia in semifinale e poi c'è la magica notte di Madrid contro la Germania. Tutto all'interno di una situazione particolare, con la nazionale in silenzio stampa che fa quadrato, con una spinta d'orgoglio incredibile, e forse uno dei grandi motivatori della squadra era proprio lui, che prende per mano i giocatori, che in qualche modo li tutela. Sentite come lo ricorda Gentile, uno che in quella nazionale, in queste partite, ha marcato a 3 giorni di distanza Maradona e Zico. Quando la squadra non andava tanto bene le prime 3 partite, che eravamo un po' criticati, lui è stato quello che ha fatto veramente da aiuto a quelli che, insomma, le critiche, molti giocatori erano stati toccati personalmente, quindi ha avuto sempre un dialogo molto affetto con noi, e tanto è vero che per me è anche lui artefice di quella vittoria, perché se non ci fosse stato lui, forse non lo so. Sì, Gentile lo indica come l'artefice di uno degli artefici di questo successo. È una bella rivincita, perché Maldini in nazionale ci aveva giocato, era andato a un mondiale, era quello del 62, dove l'Italia venne sconfitta dal Cile con un arbitraggio scandaloso, 2 espulsi, con la caccia all'uomo dei cileni agli italiani, quindi una eliminazione ingiusta che bruciò molto. Insomma, Maldini si è preso anche lui questa rivincita nell'82. 20 anni dopo, anche lui ha l'onore di sollevare al cielo la Coppa del Mondo. E nell'86, mentre la nazionale di Berzot va invece in Messico a vivere un mondiale deludente, verrà eliminata dalla Francia negli ottavi di finale, Maldini prende in mano la Under 21. E qui c'è veramente uno dei grandi colpi d'ala di Cesare Maldini. Rimane 10 anni in questa nazionale, vince 3 volte consecutive l'europeo, nel 92, nel 94 e nel 96. In questo decennio lui fa esplodere, insomma, porta in nazionale gente come Totti, come Panucci, come Vieri, come Nesta, Toldo, Cannavaro, Inzaghi, Del Piero, tutti i giocatori che hanno fatto la storia del calcio italiano, che sono passati quasi subito alla nazionale maggiore e che hanno contribuito alla scia dei successi prima degli azzurrini di Maldini e poi anche nella nazionale maggiore, ovviamente. Felicissimo, non saprei neanche trovare le parole. Felicissimo per i nostri ragazzi, perché non hanno mai mollato, per 2 anni sono stati veramente esemplari in tutti, non solamente sul campo, anche fuori, e questo è una grande gioia per me. Tutti bravi. Anche se non vincevamo ai rigori, sì, eravamo sì, bravi. Abbiamo detto anche noi, come ora se avesse vinto. Chiudiamo in bellezza, arrivederci al prossimo anno. Eh sì, questo è l'audio alla fine della terza finale vinta ai rigori nel 96 con la Spagna. Maldini già dice ci vediamo al prossimo anno, cioè alle qualificazioni del europeo Under 21 del 98, ma non andrà così, perché il destino per lui ha programmato un trasferimento, perché è il momento della nazionale maggiore. Maldini prende in mano la squadra che ha il morale sotto i tacchi, perché è andata molto male con Sacchi ed è stata eliminata nel 96 negli europei inglesi. Immagini che vi arrivano in diretta dallo stadio Lescaut di Bordeaux, dove sta per avere inizio l'incontro internazionale tra Cile e Italia, debutto degli azzurri ai mondiali di Francia 98. È incredibile come la storia si muova veramente in modo circolare, perché il Cile aveva segnato la fine dell'esperienza in nazionale di Cesare Maldini da calciatore, e proprio con Italia-Cile inizia il mondiale di Francia 98 con Maldini allenatore. È una squadra dove c'è un Del Piero infortunato che si divide il posto da titolare con Roberto Baggio, ma c'è Vieri, ma c'è anche molto Milan, perché c'è Costa Curta, Albertini, e c'è anche un giocatore che lui non ha potuto non convocare, perché Paolo Maldini è uno dei più grandi difensori di sempre, ma uno dei più grandi ovviamente soprattutto in quel periodo, quindi insomma nessuno si è meravigliato del fatto che Cesare Maldini convocasse Paolo Maldini. Anzi, contro il Cile l'Italia pareggia, la stampa inizia a rumoreggiare, poi però c'è un 3-0 al Camerun, un 2-1 con l'Austria, e negli ottavi di finale l'Italia batte la Norvegia Francia con gol di Bobo Vieri, si va ai quarti, c'è la Francia, la nazione ospitante. Alla fine dei tempi supplementari siamo ancora 0-0, si va ai calci di rigore. Il Falco e il Gabbiano. Stiamo raccontando le tante vite di Cesare Maldini e dopo quella da calciatore stiamo raccontando quella da allenatore. Prima una vittoria da calciatore nella prima Coppa dei Campioni vinta dal Milan nel 63, poi allenatore di club, poi vice di Enzo Berzot, poi tre europei vinti come CT dell'Under 21 italiana e poi la promozione alla nazionale maggiore. E adesso siamo davanti al dischetto dei rigori ai mondiali di Francia 98, dove nei quarti di finale l'Italia incontra la Francia ospitante, si va alla lotteria dei rigori. E a questo punto è il turno di Gigi Di Biagio. 5 tiri, 4 gol. Di Biagio ora. È finita. La Francia va in semifinale. Eh sì, quel rumore secco che forse avete sentito in mezzo ai fischi dei tifosi francesi, fischi di paura ovviamente e di comprensibile ostilità, quel rumore secco era la traversa colpita da Gigi Di Biagio. La Francia va in semifinale, l'Italia è eliminata e con questa partita si chiude anche la carriera di allenatore della nazionale di Cesare Maldini. Lui rassegna le dimissioni, un momento che molti ricordano con tristezza, perché per molti ragazzi di quella nazionale che provenivano dall'Under 21, Maldini era stato un padre prima ancora di essere un allenatore. E adesso abbiamo al telefono un giocatore che in quel mondiale c'era, e peraltro che c'era anche in quello dell'82, ed è un giocatore che nell'82 dimostrava più anni di quanti ne dimostri adesso, perché nell'82, diciottenne, con i baffoni, lo chiamavano lo zio e sembrava un uomo adulto, e adesso invece è un giovanotto di X anni. Sto parlando di Beppe Bergomi. Buongiorno Beppe. Buongiorno, ciao Enrico, buongiorno a tutti. Allora, stiamo parlando di Cesare Maldini. Tu hai fatto 4 mondiali e hai avuto Maldini nel primo come vice allenatore e nell'ultimo come allenatore, e molti l'hanno definito un padre. Com'era Cesare per voi ragazzi? Ma guarda, sicuramente era un personaggio unico, nel senso che un collaboratore fidato per Berzot nel mondiale dell'82, dove effettivamente curava tutta la parte tecnica d'allenamento, perché Berzot si fidava ciecamente di lui e quindi era un punto di riferimento per noi durante gli allenamenti. E poi nel 98 era veramente come un padre, perché arrivava dall'esperienza vincente dell'Under 21, sì, dove aveva vinto 3 campionati, esatto, a fila. E lì, ti dico la verità, io ero 7 anni che ero fuori dalla nazionale, sì, mi ha riconvocato e mi ha detto: vieni, non parti titolare ma sei il primo cambio per la riserva. Quindi poi per me quel tornare nel mondiale dopo tanti anni è stato veramente quel mio mondiale, uno dei più belli, ecco, perché poi ho avuto la fortuna anche di giocare le ultime 3 partite, quindi sarò sempre riconoscente a Cesare Maldini. Senti, com'era come allenatore? Nel senso, era uno che si informava, era un innovatore, era più uno psicologo o più un tecnico? Allora, dobbiamo dire innovatore, no, perché giocava un calcio classico, sì, sicuramente. La bravura di Maldini, secondo me, era quella di scegliere bene i giocatori, sì, e metterli nel posto giusto ed essere poi funzionali tra di loro. Questo, secondo me, era la qualità importante sua. E poi, sotto l'aspetto motivazionale e di gestione del gruppo, era molto bravo, ecco, da quel punto di vista non doveva imparare da nessuno. Senti, c'è molta differenza, secondo me, anche se non sono un profano, però tra allenare una squadra di club, che vuol dire vivere con questa squadra per 10-11 mesi tutti i giorni, e allenare una nazionale, credo ci sia una differenza enorme in questo senso. E anche se oggi gli allenatori tentano, voglio fare lo stage e stare tutti assieme eccetera eccetera, però in realtà l'allenatore di una nazionale deve scegliere, come dicevi tu prima, dei campioni, deve sceglierli bene, amalgamarli bene e in qualche modo creare uno status mentale per cui magari dopo aver finito una stagione tu a giugno sei in forma e motivato per andare a fare un europeo, un mondiale. Ecco, Maldini aveva questo. Maldini aveva questo, sicuramente sapeva scegliere bene i giocatori, come ti ho detto prima, selezionare bene i collaboratori, fare una giusta preparazione, perché quando si gioca a giugno è completamente diverso, no? Pensare a un campionato che dura 10 mesi, esatto, e quindi invece devi non sbagliare la preparazione, magari non essere troppo in forma all'inizio nel girone di qualificazione per poi avere una condizione che cresce piano piano, che ti porta a una forma nella fase decisiva di un mondiale. Ma come ti ho detto prima, secondo me Cesare, la bravura sua era effettivamente scegliere i giocatori, metterli insieme, perché fai avere tutti i giorni come un allenatore di club, allora magari chiedi altre cose ad una squadra, invece averli solamente una volta al mese, una volta ogni 2 mesi, allora devi essere bravo ad assemblarli e metterli insieme. Certo. Senti Beppe, ti faccio l'ultima domanda, è una curiosità. Dunque, quando io ero bambino, mia madre era insegnante nella mia scuola e in qualche modo a me sembrava che tutti mi trattassero peggio proprio perché mia madre insegnava lì e nessuno voleva far pensare che io fossi raccomandato. Ecco, come deve essere allenare in una nazionale dove c'è il proprio figlio, che peraltro è, come dire, inoppugnabile, perché Paolo Maldini ovviamente aveva tutti i diritti per stare in quella nazionale, però che rapporto c'era tra padre e figlio, per come l'hai visto tu? Guarda, chi era maggiormente imbarazzato era Paolo, sì. Ma non doveva esserlo. Certo. È stato il giocatore forse più forte italiano che abbiamo avuto. Sì, moderno. Io lo metto moderno come difensore in assoluto, quindi noi capivamo che Paolo giocava perché meritava. Certo, ovvio. Quindi non c'era da quel punto di vista nessun favoritismo. Ma quando diceva Paolo, la formazione, lui diceva Maldini o diceva Paolo? Questa è la domanda, non me lo ricordo più, però secondo me lo chiamava Paolo. Beppe, grazie, sei stato gentilissimo. Ci mancherebbe. Un abbraccio e complimenti. Buongiorno a tutti. Ciao, arrivederci. Ciao, ciao. Quindi un ottimo allenatore per la nazionale, anche se sfortunato, perché i calci di rigore, insomma, perdere i calci di rigore certo non è una fortuna. Era uno che, mi ricordo, nei mondiali del 98, quando si girò a parlare con uno spettatore che gli contestava non mi ricordo cosa, e lui in qualche modo si è messo a discutere, cosa anomala se anche la raffrontiamo a quanto siano sprezzanti gli allenatori oggi nei confronti dei tifosi. Dopo aver chiuso il capitolo con la nazionale, lui lavora come osservatore, ovviamente per il Milan, ma sono anni complicati di transizione. Lui fa anche per 3 mesi l'allenatore, è affiancato da Tassotti, non ha rilevanza, tranne che all'interno di quei 3 mesi c'è una data che ricordo, ahimè, molto bene, perché l'11 maggio del 2001 il Milan affronta l'Inter in un derby di quelli, diciamo, di secondo piano, però vince 6-0 e un certo Comandini fa 2 gol al l'Inter in un 6-0, ma lasciamo perdere. E poi arriva il 27 dicembre 2001 e squilla il telefono, è una telefonata che arriva dal Paraguay. Il Paraguay deve giocarsi il mondiale di Corea. Maldini, che ha 70 anni, accetta e diventa l'allenatore più anziano che si sia mai seduto su una panchina di un mondiale. Paraguay ha un grande portiere, è un simbolo della nazione, Chilavert, è un portiere grosso, particolare, è uno che fa un sacco di gol, tira le punizioni, insomma è un personaggio interessante, magari un giorno ci facciamo una puntata. Comunque, il Paraguay in quei mondiali arriva agli ottavi di finale e si trova contro la Germania di Klose, di Ballack. Neuvel in the middle, it's Neuvel! And Germany are ahead! And could be heading for the quarterfinals! An inner flash, il gol di Neuvel all'88esimo minuto, è il gol con cui la Germania, che nei mondiali riesce sempre in qualche modo a farla franca, andare avanti, arrivare almeno alle semifinali, ce la fanno sempre, e con quel gol la Germania elimina il Paraguay. Arriverà in finale la Germania, come spesso le accade, perderà però contro il Brasile per Cesare Maldini e il ritorno a casa. Ma ci sono persone che non possono stare senza lavorare, e il calcio, se l'hai praticato, probabilmente poi ti rimane nel sangue così tanto che anche se l'età anagrafica consiglierebbe un meritato riposo, Maldini inizia una nuova esperienza, commentatore televisivo insieme ad Alessandro Altobelli per beIn Sport, che è un circuito televisivo del Qatar. Anche in questo caso si parla di un'amicizia iniziata 20 anni prima, questa volta diciamo Rocco e lui e Altobelli e Maldini, no? Comunque Altobelli era stato un suo giocatore, uno degli eroi della splendida vittoria del Mondiale, e quindi nasce una nuova coppia, Maldini-Altobelli. Per il nostro lavoro di commentatori abbiamo passato 10 anni insieme a viaggiare. Africa, Asia, ovunque andasse lui era una leggenda. Aveva il rispetto incondizionato di tutti, perché tutti conoscono la sua storia, i suoi successi. Tutti ricordano la foto di lui che alza la Coppa dei Campioni con la maglia del Milan. In Asia era amatissimo. Dove arrivava Al Jazeera arrivava anche lui, ed era molto apprezzato sia come figura professionale che come persona. Abbiamo fatto tantissimo insieme e sono felice di aver avuto questo privilegio. E sentite con quanto affetto e rispetto, questa è un'intervista fatta da Altobelli a commento della sua esperienza con Cesare Maldini. È domenica quando si ferma il cuore di Cesare Maldini, 3 aprile 2016. Quel giorno in tutte le partite del campionato si osserva un minuto di silenzio, il Milan gioca col lutto al braccio e nella Basilica di Sant'Ambrogio ci sono tanti campioni che hanno giocato o che sono stati allenati da Maldini. Ci sono tutti gli eroi dell'82, quelli del 2006, ci sono quelli nati nella sua Under 21, poi c'è un comico, Teo Teocoli, che è stato un grande amico di Cesare Maldini, anche se lo ha fatto un po' arrabbiare con quella sua imitazione, che è nata però da una solida amicizia. Siamo qua con Cesare Maldini, buonasera. Buonasera. Come va? Ha visto la partita? Ma sì, molto bene. Dove che ieri sera ho visto la partita. Noi l'abbiamo incontrata in ascensore ieri sì, sera. Sì, e lì sono rimasto. Ma non è vero. Ma sì, ma una partita che era meglio stare in ascensore per me. Poi non ha giocato mio figlio. Paolino ormai non gioca più, ecco. È infortunato? No, perché ormai non è voluto smesso. Andare allo stadio? No, è che ormai ha finito la Ma come carriera. Si fa a finire una carriera a 25 anni? Ma no, a 40, finito, ricordo che era... Cosa vuol dire? Che io ne ho 80. Una grande carriera, una grande persona che io ho avuto anche l'onore e il piacere di conoscere, una grande storia piena di colpi d'ala. Ecco, noi vi aspettiamo con altre storie come questa, e se volete segnalare qualcosa fatelo al falcoelgabbiano@radio24.it o al sito di Radio 24, o sul mio Facebook, sul nostro Facebook, o sui nostri social, Twitter per esempio, insomma se volete, lo sapete, mi trovate. Ciao, a lunedì. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.